Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Quando si dice incontrare le antitesi perfette, questo mi è accaduto in questo viaggio in treno. Quindi, gradualmente, in maniera progressiva, cercherò un contatto con i due passeggeri che mi stanno di fronte. Sono accanto, ma sono esattamente due universi inconciliabili. Parliamo della prima. È una ragazza sportivamente vestita, addirittura ha un casco nella cappelliera, dove normalmente la gente mette il trolley, probabilmente una motociclista che svolge un viaggio di compensazione tra una tappa e l'altra dei suoi viaggi in moto. Perché dico una motociclista? Perché ho un libro, sfoglio un libro che racconta un'avventura in motocicletta. Cosa ci fa una motocicletta in treno? Non posso che chiederlo. Ho fatto 20.000 km, zero problemi, mi sono rotta la caviglia sotto casa a fare la spesa, 2 mesi di letto. Cioè sei scivolata con la borsa della spesa, sì, in mano? Esatto, sotto casa. Sono cadute tutte le arance, gli zucchini, tutto quello che hai comprato. Tutto, proprio, guarda. Ma com'è, sei scivolata? Cioè delle scarpe non c'era no, avevo le scarpe da ginnastica, c'era una buca. Ah, le buche nei marciapiedi, lo so. Esatto, adesso l'ho vista, sono sfracellata. Fai causa al comune, naturalmente, lo sai. Sì, a domani ho l'appuntamento col medico legale, quindi assolutamente ho già iniziato tutto, sì. No, mi hanno dovuto anche operare, dai, 10 giorni in ospedale. Tornerà come prima la tua caviglina? Sì, no, torna come prima, dai, sono all'80% adesso. Beh, ancora un po' zoppichi però, Sì, ancora zoppico. Però piano piano, oggi sono andata anche in palestra, stamattina un po'. Vabbè, mi sembra... Adesso non esagerare, capito? Dai, voglio recuperare. Ecco, cosa hai fatto di pericoloso che invece non ti sei fatta nulla? Parlami un po' di questo viaggio. Vedo che hai scritto un libro. È un libro di viaggio? Guarda, il libro l'ha scritto in realtà il mio fidanzato Valerio Savioli, con quale ragazzo, con cui il mio compagno di vita e di viaggio, col quale poi abbiamo appunto affrontato questa esperienza. Quindi voi prima stavate assieme, poi ha detto un giorno andiamoci a fare un giro. Sì, noi stiamo insieme da 14 anni, siamo sposati a 20 anni a Las Vegas, il primo di aprile. E c'era tutta una presa in giro, primo aprile a Las Vegas, non siete sposati praticamente. Esatto, tutti ci dicevano, mamma mia, questi non durano un giorno, invece dai, sono 14 anni, quindi ci ha portato fortuna. E, ma com'è Las Vegas? No, per capire, com'è stavate a Las Vegas? Perché mio fidanzato, lui ha avuto la fortuna di viaggiare. Fa il croupier, cosa fa? Il croupier, il giocatore, cosa fa? No, lui lavora con la sua famiglia e adesso poi gestisce anche una società, vabbè, con la famiglia, ma... Una catena di casinò, dai, su, non c'è niente di strano. Sì, esatto, in realtà sì, è un... No, scherzo, no, lavora per una casa editrice di Rimini. Ma voi eravate andati insieme a Las Vegas o vi siete conosciuti lì per caso? No, siamo andati insieme, ci sono conosciuti a Riccione, perché sua mamma mi ha affittato l'appartamento e studiavo a Rimini. E... Hai detto, e facciamoci quindi... una botta di vita, andiamo a Riccione, da Rimini. Esatto. E ho trovato il marito. E ho trovato il marito, esatto. Sua mamma ci ha presentati e non era suocera assolutamente tipica italiana, anzi. E tu che eri andata a fare? Niente, a fare al mare così. Come, scusa? Tu eri andata al mare, l'appartamento è per andare al mare o per vivere? Cos'è? No, perché studiavo in una serie distaccata di Bologna, Rimini. Oh. culture tecniche della moda. E quindi cercavi una casa nei dintorni e l'hai trovata a Riccione. Esatto, l'ho trovata a Riccione. Sua mamma molto semplicemente mi ha detto, guarda, per lei viveva più lontana, ma ha detto, per questo problema tecnico della casa non mi chiamare, ma chiama mio figlio, che vive anche lui a Riccione, e hai dei problemi. Però è una furbacchione, hai capito? Lei affittava casa con annesso figlio, sperando di trovare una compagna per il figlio. L'ho accasato. Ma il figlio non aveva problemi nel trovare. Sì, però l'ho accasato. Lo so. Le signorine, hai capito? Ma le brave ragazze che raffittano l'appartamento, studentesse, così, è un'altra storia. A Riccione lo so, grazie. Però aveva avuto l'occhio lungo sua mamma e ci siamo conosciuti, però ognuno ha passato la sua estate. Lui è andato in vacanza studio, io sono andata a Mykonos. Dopo il primo anno di università, una volta tornati in autunno, abbiamo iniziato ad uscire. Dopo mesi che vi siete conosciuti praticamente. Sì. Quindi non è che è sbocciato d'amore fulmineo appena vi siete visti. È stata una cosa meditata. È stata una cosa piano piano. Ci siamo conosciuti piano piano e poi non ci siamo più lasciati. Quindi questa è una grande... una cosa che mi ha reso molto felice, insomma. Va bene, una cosa bella, rara. E allora, in questa vostra vita assieme, a un certo punto avete deciso che viaggiavate, giustamente, no? Sì, abbiamo sempre avuto questa passione per i viaggi e appena si poteva si organizzavano 2 o 3 giorni, una settimana. Anzi, lui che faceva il figo romagnolo, che sai che qui le due ruote sono una religione, mi è venuta a prendere all'università per fare un po' il figo con l'una... 14 anni fa con la moto, solo che io ero vestita da fighetta che studia moda e il tragitto di 10 km Riccione Rimini mi ha devastata e da lì non ho più voluto vedere una moto per 5, 6, 7 anni. E tu eri tacchi a spillo, minigonna? Sì, avevo dei tacchi, non mi ricordo, ma ero proprio vestita malissimo, cioè proprio per salire su una moto allucinante, era scomodo, mi sentivo insicura, non mi era piaciuto per niente, ho detto guarda, tu vai con i tuoi amici, fai quello che vuoi, ma io non ci salgo più. Non sarò più sul tuo sellino posteriore. No, esatto. Poi lui 6-7 anni dopo ha cambiato moto, ne ha presa una più da turismo, più da viaggio. Perché la prima era una moto da corsa, quindi stavi scomodissima. Sportiva. Non può andare, certo. Assolutamente. Invece poi con quest'altra moto, non lo so, diciamo che mi ispirava. Abbiamo iniziato a fare dei giretti qui nell'entroterra romagnolo, Baglio di Romagna, Pennabilli, tutte queste zone collinari molto carine che ci sono, che pochi conoscono, ma sono veramente belle. Cioè ti ha convertita a fare la passeggera, partivate fine settimana a fare viaggetti in moto. Sì, e piano piano, chilometro dopo chilometro, mi appassionavo sempre di più, mi piaceva, mi rendevo conto che non avevo né paura, e anzi, mi dispiaceva quasi ogni volta che dovevamo scendere. Iniziavo a guardare proprio il paesaggio in una maniera diversa, non più con quel terrore, oddio, ma con proprio a godermi il lato del passeggero, e a poter, perché è bellissimo quando stai in moto, diventi parte del paesaggio. Senti gli odori che cambiano, senti la temperatura che cambia, e accorgermi di tutte queste cose, ma sono le stesse ragioni per cui prima tu avevi terrore e avevi schifo ad andarci, a chi piace tanto. A chi non piace per niente. Esatto, prima invece proprio mi terrorizzavano, li odiavo, e invece così, iniziavano a piacermi, e dato che sono una curiosa, piano piano dicevo ok, però adesso qui i giri li abbiamo fatti, e anche a lui comunque è sempre piaciuto moltissimo, era anche lui un altro curioso, abbiamo detto dai, adesso magari il prossimo anno andiamo oltre confine. Τον ερωτά μας τραγουδούν, τον αμετάλλο πως φεγκοβολούν. Χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Τα ναζόκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω, όλα τα λάθη σου τα συγχωρώ. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που κοιτώ. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra... Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E oltre confine, che significato? Dove siamo andati? Siamo andati la prima volta in Scozia, l'estate, 2 settimane. E l'anno dopo mi sembra a Capo Nord, e poi ci sono stati anni in cui non siamo potuti andare per situazioni familiari, lavorative, che non, diciamo, non ci permettevano di prenderci troppo tempo per noi. E poi avevamo questo sogno, io sentivo parlare da lui di questa Transiberiana, di questo paese più grande al mondo, ovvero la Russia, con 7-8 fusi orari diversi, con tutte, quasi tutte le religioni del mondo presenti, e mi affascinava, e alla fine abbiamo detto: facciamo una cosa, la prossima estate, dato che io mi trovavo in un momento professionale in cui non lavoravo più, e lui era riuscito in un modo a ricavarsi qualche settimana in più, abbiamo detto: affittiamo l'appartamento, che tanto sai che a Riccione d'estate, certo, affitti facilmente, in casa, affittiamo casa e riusciamo a finanziarci questo sogno. E abbiamo iniziato piano piano, senza dirlo a nessuno, perché avevamo paura, che poi sai, non volevamo tenerci, cioè lo scopo era di andare in un posto molto lontano. Sì, noi volevamo andare all'inizio a Mosca. Sì, vabbè, che Mosca ci si arriva, sembrava, comunque. Sì, comunque sì, ci arriva. Sembrava, almeno è tutta terraferma, sì. Ecco. E poi piano piano ho pensato: no dai, però un po' più in là, arriviamo a Vladivostok, che è l'ultima città della Transiberiana, sì, che è sopra la Corea. Sì. E poi da lì, noi eravamo stati anni prima, che abbiamo una coppia di amici che vivono a Tokyo, eravamo stati in Giappone, e guardando la cartina vedevamo che era così vicino. Che alla fine sì, era a due passi il Giappone, se eri arrivato lì potrei andare anche in Giappone. E dicevamo: ma se arriviamo a Vladivostok magari riusciamo ad arrivare anche in Giappone, chi lo sa. E se l'avete fatto? E abbiamo iniziato a chiedere i documenti, chiamare le ambasciate, fai un giro, fai un altro giro. Però la cosa che mi è piaciuta è che abbiamo tenuto la nostra moto, non abbiamo cambiato moto, cioè la nostra è vecchia, è un BMW R1150R. Certo, in Giappone ti avranno guardato lì la parte delle moto, quindi... Esatto, è una vecchia moto. E poi pensa che prima di salire, di arrivare in Giappone, hanno voluto assolutamente, cioè, avvisato il customer broker che ci aiutava con... la documentazione per entrare dalla Russia al Giappone, che comunque giustamente sono molto fiscali, certo. Pretendevano che alla dogana tu pulissi la moto e prima di sbarcare doveva essere lucida, però non ti permettevano neanche di scendere dal traghetto. Quindi sul traghetto dovevi pulire la moto? Sì, ma noi allora l'abbiamo pulita prima ad imbarcare. Cioè non vogliono moto sporche in Giappone? No, non so. No, io dicevo: ma come sarà possibile? Poi in autostrada effettivamente mi sono resa conto che, essendoci già stata, ma non in autostrada, non avevo girato le volte prima, che hanno i camion, le auto e le moto più pulite che io abbia mai visto in vita mia. Hanno dei camion che ci puoi spezzare. Beh, sono persone civili, che discorso. Sì, sono una roba pazzesca. Quindi hai lucidato la moto sul traghetto? Sì, poco prima di partire, che aveva non so quanto fango, non l'avevamo praticamente mai pulita, e quindi sai, facendo la Transiberiana c'erano dei pezzi di mancanza, cioè la strada non c'era. Avete avuto, diciamo, incidenti di percorso oppure? Sì, allora la moto si è rotta 4 volte, si è rotta soprattutto poi purtroppo nella zona, si è rotto il cardano, nella zona più remota della Siberia. Certo, un cardano della BMW di vecchio, esatto, modello in Siberia, l'avete trovato? Allora, poi ci hanno aiutato e tutto, e ci hanno montato, perché lì vanno molto, essendo vicino naturalmente all'Oriente, all'Asia, hanno tutte moto giapponesi, quindi di BMW ce ne sono pochissime, e ci hanno montato il pezzo, il cardano di un altro modello di BMW che hanno adattato, però alla fine hanno fatto talmente un buon lavoro che noi siamo riusciti a tornare, perché poi abbiamo fatto la strada anche che andava bene lo stesso, che ce la siamo tenuti poi qui a Riccione per altri 3-4 mesi lo stesso cardano. Sì. No, sono stati fantastici. Ah, no, l'avevano adattato bene, più o meno non sarà stato molto favolosi. Differente, perché sennò... E poi non ci volevano mai far pagare tutte le volte che si rompeva la batteria. Ah, ci avevano messo la batteria di un computer, la nostra sera. Si era rotta, ce l'hanno messo una di un computer. Però ogni volta, soprattutto in Russia, veramente sono stati... Ci buttavamo in mezzo alla strada, tipo aiuto, aiuto, con le mani in alto, le braccia alzate. Perché con le mani alzate per spezzare la strada? Perché comunque quella volta in Siberia c'è una strada dove... Passa uno ogni 2000 ore. Esatto, e quindi quella volta che abbiamo aspettato ore, quando abbiamo visto passare una persona, ci siamo proprio lanciati, la disperazione ci ha fatto... Sì, certo, rimanere bloccati in Siberia in mezzo a una strada dove non passa nessuno, esatto, in moto, non credo sia proprio il massimo. No, io infatti in quel momento lì è stato un momento in cui mi sono sentita male, perché... Cioè, hai pensato alla morte bianca, chiaramente. Sì, avevo una paura, ma soprattutto anche degli animali, di notte. Avevo trovato due innocenti cadaveri dilaniati dai lupi della steppa e ghiacciati. Però poi è passato un uomo su un camioncino, si è fermato, non parlava naturalmente una parola d'inglese, e quando l'ho visto ho pensato, mio Dio, questo se lo incontrassi a Riccione cambierei assolutamente marciapiede, strada e forse anche città. Era losco a vederlo. Mosto. Però diciamo che 4 ore e mezza, 5 ore con lui in auto sono state impegnative, perché non si riusciva a capire se avesse buone intenzioni o cattive intenzioni. Ah, c'era anche questo dubbio. Sì, perché al telefono continuamente diceva, chiamava amici e diceva italienski. Quindi pensate, un agguato, ci stanno preparando, esatto, l'agguato, esatto, arrivano 4 con le motoseghe e con le asce e siamo finiti. Esatto, il mio fidanzato aveva visto un cacciavite per terra, lui era davanti, allora l'ha preso, se l'ha messo all'interno della manica del giubbotto. Addirittura pronto a difenderti col cacciavite? Sì, perché ha detto, mamma mia, questi arrivano in 20. Ha detto, ma in 20 con Kalashnikov che gli facevate? Esatto, ha detto magari uno per sbaglio. Cioè legavano le un palo e sì, esatto, sì, sfantazzavano con te inerme, capito? Esatto, invece alla fine, sai cosa è successo? Lui dopo 4 ore e mezza ci ha portato in questa città, in questa piccola cittadina, in una sorta di locanda dove poi abbiamo dormito, e lui aveva comprato anche 2 birre e voleva poi alla fine semplicemente poter bere una birra e fare 2 chiacchiere con mio fidanzato. Ma in che lingua parlavano? Se non... Noi avevamo il... cirillico, la tastiera cirillica nel cellulare, e quindi cercavamo con la tastiera di comunicare, di tradurre. Ma se non sai le parole, come fai? No, ma se ogni tanto c'era internet si riusciva con Google Translate. Ah, con Google qualcosa. Translate. Ah, con Google. E tra l'altro vuoi sapere che lavoro faceva? A un certo punto ci siamo fermati a mangiare una zuppa, un borscht, e lui gli abbia chiesto per un po' per eliminare la tensione, gli abbiamo chiesto, ma che lavoro fai? E lui ha digitato e il traduttore ha detto praticamente che lui seppelliva corpi. Quindi era un becchino. Il becchino della steppa. Il becchino, c'era la pala dietro nel fugo. Ecco perché aveva un minivan, un camioncino scappato. Ah, quindi l'ha messo al posto delle bare, l'ha portato. Sì, noi abbiamo caricato la moto dietro, lui è riuscito, cioè, a peso, siamo riusciti ad alzarla e a metterla nel cassone dietro del camioncino, ed è però ecco perché ce l'aveva, perché lui è il becchino della Siberia. Vabbè, andava a prendere un cadavere, già che c'era, l'ha portato a voi. Sì, esatto, però no, è stato veramente di grande aiuto, se no a quest'ora eravamo ancora là, quindi è stato fantastico. Joulu on rakennettu, joulu on jo ovella, namusia ripustettu, ompi kuusen oksilla, kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kaunis. Thank you. aavikuusen oksillaan. Uusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat. Laulelevat. Laulelevat. Laulelevat. Joulukuun rakennettu. Joulukuun rakennettu. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Andando avanti poi? Andando avanti ci sono stati... Il passaggio dal Giappone sembra che sia stato tranquillo. Sì, io in Corea abbiamo dovuto prendere il traghetto per 2 giorni dalla Corea al Giappone e ho avuto un'intossicazione, ma ci sta, normale. Siamo sbarcati... Che avevi mangiato? Ma io niente, avevo mangiato una frittatina, quindi forse le uova sul traghetto non erano... Le uova della steppa non erano... non erano il massimo. Ma che le galline in mezzo alla bufera lì sopravvivono. Esatto. Le prendono ogni tanto quando trovano una gallina, ma è logico. Oddio, ma... E poi quando siamo arrivati in Giappone c'erano 43-44 gradi, pazzesco, era questa... che si chiama Sakaginato nel sud, che è una quasi tropicale, e si scioglievano, ti giuro, si scioglievano le suole delle scarpe, proprio si scioglievano sul pedalino, quindi guidare in Giappone è stato veramente impegnativo a livello fisico. Infatti noi guidavamo... Ma voi quando vi fermavate, dove dormivate? Dovete trovare degli alloggi o c'erano anche le tende, queste cose qua? Allora, guarda, noi avevamo dietro sì le tende, perché comunque per sicurezza quando non trovi ti fermi così, però noi alla fine abbiamo sempre avuto fortuna di trovare in Russia delle, si chiamano gostinizza, che sono delle sorte di locande sulla strada dove puoi dormire, ci sono anche i camionisti e ci sono le docce in comune. Quindi hai fatto la doccia con i camionisti? Sì. Vabbè, e ti vendono i pezzi di carta igienica uno a uno, quindi se vuoi 4 usati pezzi. No, quelli almeno no, sono nuovi. 5, 6, ah, cioè il camionista 6. Lì duto sotto la doccia ci vuole un pezzo di carta igienica, ti vendeva un pezzo di carta igienica. Sì, e poi anche gli asciugamani, perché comunque esci dalla doccia e... Ma perché tu non c'avevi il tuo, non te l'hai riportato da casa? No, l'asciugamano non ce l'avevo, quello no. Cioè tu parti in un viaggio verso il Giappone da Riccione e non ti porti un asciugamano? No, però guarda, ti dico... Eri preventivato di non lavarti mai, scusa, come fai? Sì, forse di essere così selvaggio, di diventare proprio siberiana. Così. Certo, ci credo che sono 14 anni che state assieme. Condividete abitudini che difficilmente altri potrebbero accettare, scusa. Mamma mia. No, ma come vi lavavate? Scusa, adesso mi è venuto il dubbio. Così nelle docce con i camionisti. No, allora è capitato che appunto ci fermassimo in queste gostinizza dove alla fine c'è la tua cameretta con il tuo i due lettini e la doccia in comune, anche perché l'unica stanza con la doccia all'interno, comunque il bagno all'interno della camera era già occupata. Era la suite, diciamo, di quel posto. Quella era la suite, esatto, quella era già presa. La suite era il bagno in camera. Esatto, le altre vai fuori e ti fai la doccia fuori in questi stabilimenti, così. Però no, quando riuscivamo trovavamo anche degli hotel normali, diciamo, quindi con il bagno all'interno della stanza, assolutamente senza problemi, dove sì, non, di quello ce n'erano nelle città naturalmente un po' più grandi, se no per strada. Così in queste costine. Però in Giappone ci siamo rifatti, perché dai, Giappone comunque... Giappone è la patria del gabinetto tecnologico, scusa. Esatto. E quindi si passava da fare, diciamo, perché queste lunghe strade in Siberia o in Russia, i bagni sono all'interno delle, tipo in Finlandia, non so se ci sei mai stato, all'interno di quelle casettine di legno, ci sono quindi in mezzo alla strada queste casettine di legno dove tu entri e c'è il buco. Vabbè, tutto il mondo funziona così. Bagni diciamo più di fortuna, un buco. Esatto. Poi invece da questo siamo passati al Giappone, dove c'è la cellula, insomma, che ti alza automaticamente la tassa. Sbuffi di vapore profumato, musica. Esatto, tutto. La musica. Io sono una ragazza che comunque ci tiene a vabbè, dopo questo viaggio ero riconoscibile, però in teoria nella mia vita normale ci tengo a curarmi. Cioè ti lavi normalmente? Esatto, sì. Mi lavo, mi piace truccarmi, comunque tenermi a posto. E, però diciamo che quando sono arrivata in Giappone mi sono resa conto di aver raggiunto un livello di proprio da selvaggia. Non ti dicevano nulla, perché la moto sarà stata pulita, ma voi eravate sporchi, non era lo stesso. Una moto stupenda e due irriconoscibili sopra, coperti di fango. Ah, no, ma a un certo punto dopo un po' non te ne frega più niente. Secondo me, guarda, io... Ma te no, ma gli altri sì, forse. No, ma gli altri forse vedevano le nostre facce distrutte, un po' così, e non si, assolutamente non avevano il coraggio di avvicinarsi e dirci niente. Anzi, una volta un hotel voleva... Noi guidavamo di notte in Giappone, perché era troppo caldo guidare la mattina. E quindi mi ricordo che siamo arrivati, mi sembra, a Tokyo, perché noi eravamo il traghetto, siamo arrivati nella punta più a sud del Giappone, quindi l'abbiamo risalito tutto. E quando siamo arrivati a Tokyo, alle 7 del mattino, eravamo partiti alle 3 di notte, l'hotel naturalmente c'era la policy che non ti dava la stanza fino alle 2 del pomeriggio. Noi eravamo distrutti, stravolti, e allora abbiamo detto però un po' di dignità. Allora nel parcheggio, mi ricordo ancora adesso che nel parcheggio dell'hotel ci siamo messi ad aprire le nostre valigie della moto e a cambiarci e a toglierci tutti gli indumenti tecnici, a metterci, non so, un jeans, una maglietta, per essere un minimo presentabili nella hall dell'hotel. Proprio così, una cosa che io non farei mai, neanche se dovessi andare a 10 km da qua. Lì me ne fregavo, capito? E mi cambiavo nel parcheggio dell'hotel alla luce del sole, così. Vabbè, questa diciamo, mi sembra che sia stata una bella esperienza. Avete progetti, sì, di farli più lunghi adesso? Più del Giappone è difficile. Del Giappone non lo so, però una cosa che mi è dispiaciuta, c'era scaduto il visto per l'ingresso in Mongolia, quindi... Ah, quindi è sfuggita la Mongolia. Ci è sfuggita la Mongolia, quindi probabilmente il prossimo, quando riusciremo, sarà la Mongolia. Senti, da tutto questo, vedo, ti c'è scritto un libro sopra, il tuo fidanzato, in cui sì, tu sì. Sei parte di questo libro, ti cita? Sì. Certo, mi cita, ci sono delle foto comunque dove io appaio ogni tanto, e la cosa che però, quella a cui tengo di più, guarda, è un caso, abbiamo deciso comunque di ricavato della vendita del libro, assolutamente di non ci vogliamo tenere un euro, perché per noi è stata una fortuna poterlo fare questo viaggio, e quindi... Cosa fate? Lo devolvete in beneficenza? Sì, c'è un ospedale vicino a Riccione, l'ospedale di Rimini, e siamo riusciti già adesso, quindi infatti forse sarà anche di una seconda edizione, comunque, di comprare una sonda BIB si chiama, per curare un tumore molto aggressivo e alle vie biliari, ed è una sonda che è monouso, quindi ogni volta che uno staff deve usarne una la deve gettare, e ha però un prezzo abbastanza, direi, elevato. E quindi siamo contenti perché siamo riusciti a comprarne una. Tra l'altro la consegniamo domani. C'è una persona con diciamo, il libro che avete venduto si comprerà la sonda per tu curarsi un problema importante. No, no, noi la sonda siamo riusciti a comprarla, l'abbiamo comprata noi e l'abbiamo presa, possiamo domani si stia all'ospedale e la prima persona che ne avrà necessità potrà curarsi e usarla. Ah beh, questa è una bella cosa, vedi, avete dato un senso, non avete buttato via nulla di questo viaggio. Esatto, volevamo dare qualcosa indietro alla vita che ci ha permesso. No, mi sembra una bellissima cosa, viaggio. Sai, raramente la gente ha pensieri così altruisti, quindi alla fine il viaggio l'avete fatto, il ricordo ce l'avete, ma se può avere un valore monetario il ricordo che avete pubblicato, qualcuno gioirà grazie a voi, gioirà, potrà combattere un suo male importante grazie a voi. Questa è una bella cosa, sono contento. Allora, spero, ti auguro di fare tanti viaggi, di fare anche tanti libri e fatti venire idee del genere. In bocca al lupo, ciao. Grazie, alla prossima, ciao ciao Luca, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Flame of the spirits and the mysteries of life. The hands of a healer and a samurai. I'll be your woman. I'll be the gypsy on a path through the trees. The deal maker with front row seats, who turns from the armchair and the picket line. I'll be your woman. Not your princess. Just stallion, an ambiguous, complex creature. Not your teacher, not your shivering dog, hunkier than your neighbor. Not your mommy, not your daddy. I'm over being daddy. Not your stallion, don't you lay down, get yourself a sailor. I'll be the mirror where you are queen. Your fellow magician of the waking dream. Hung with a hammer and a glass of wine. I'll be your woman. si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Il secondo passeggero, che quasi incredulo ha ascoltato la storia della ragazza e del suo viaggio in motocicletta verso territori lontani con l'uomo della sua vita, quello che allora c'era, c'è tuttora, sembra un uomo deluso dalla vita. È un uomo, in realtà, dall'aspetto non proprio invitante, è un uomo segnato dalla tristezza, segnato anche da una sorta di concupiscenza nascosta. È un uomo col borsello dal quale non si separa mai. E quindi anche lui ha voglia di raccontarmi la sua storia. Questa storia non l'ha mai raccontata nessuno? No, solo a qualche amico intimo, però, ma tanto quelli non sanno niente di... Senza dire le circostanze? Non conoscono, quindi non c'è nessun contatto, non c'è niente di... Quanto tempo fa è accaduto? Era... Sono andato per un colloquio di lavoro a Bologna, era il 16 luglio, una cosa del genere quest'estate. Ah, quindi si ricorda il giorno esatto, quindi è rimasto un ricordo impresso. Sì, perché avevo un impegno di lavoro, dovevo andare a fare un colloquio e quindi ho preso il treno e sono andato giù. Che orario era? Cominciamo dall'orario. Era al mattino. Era al mattino verso le 9:30, 10, mi pare che era verso le 10 il treno da Venezia che andava a Bologna, erano le 10 del mattino più o meno. Quindi era pieno di gente, molta gente. Ma relativamente, no, il compartimento dove ero io lì, sì, il resto del treno era pieno, infatti, noi eravamo nell'ultimo vagone e lì c'erano 7-8 persone. Va bene, com'è avvenuto il contatto? Come ha visto questa persona? Quando andando in treno, no, se guardi fuori dal finestrino e metti a fuoco fuori, vedi fuori e guardi quello che c'è fuori, e io quello stavo facendo. Se però tu metti a fuoco il vetro, vedi il riflesso di quello che c'è dentro. Quindi la dama nello specchio le è apparsa. Porca miseria, sì, si vede che 3 sedili più avanti c'era questa signora seduta e io guardando fuori. Lei aveva pensato magari che io stessi guardando lei. A un certo punto vedo questa ragazza che comincia ad alzarsi, sistemarsi la coda dei capelli. Una ragazza o una signora? Definiamo. Ma una signora sui 45 anni. 45, vabbè, una ragazza ancora, nei tempi. Sì, una ragazza, anche neanche male, anche carina, sì, non era male. Vestita in maniera provocante o classica? No, aveva un vestitino di quelli tutto ad un pezzo, sai, col cotone fino al ginocchio. Donna è vestito tutto insieme come una maglia lunga, in poche parole. Sì, ho capito. Un vestitino così d'estate, caldo, quindi era così. Cioè, si alza, comincia a muoversi, a tenersi i capelli, giù le spalline, su le spalline, poi si alza dal suo posto. Cioè stava facendo un numero praticamente, ai suoi occhi. Sì, ma io non me ne sono accorto, no? Chi ci pensava? Io stavo pensando all'impegno che avevo, le cose che dovevo andare a fare. Non è che magari aveva caldo, così si sventolava un po' perché aveva caldo, no. No, ma aspetta il proseguio della storia, dopo vedrai che caldo che aveva. Niente, a un certo punto si alza, mi viene accanto e mi chiede se può sedersi accanto a me. Io ero dalla parte del finestrino, lei dalla parte del corridoio, ho detto va bene, si sieda. Si reputa un uomo, diciamo, desiderabile, avvenente? No, io sono una persona normale, mi tengo bene, mi tengo sempre a posto, i capelli sono sempre pettinato, non sono... Con il riporto, un po' di riporto, sì. Leggero riporto però. Leggero, ho sì. 50 anni suonati anch'io. Un pochino, ci si aggiusta un po'. Poi a un certo punto mi prende con due mani la spalla destra, e mi dice qui c'è da appoggiarsi, posso appoggiarmi qua, come per dire sto comodo appoggiato sulla tua spalla. Era seduto proprio accanto a lei, nel sedile accanto? No, lei è venuta a sedersi accanto a me. E ha appoggiato la testolina sulla sua spalla? Esatto, chiedendomi se poteva farlo. Beh, un gesto paterno, ha bisogno di affetto paterno forse, no? Ma sì, io ho detto ma boh, qui c'è qualcosa di strano, non mi tornano tanti conti, ma va bene. Non è mai successo nella vita che una donna dicesse posso appoggiarmi alla tua spalla? No, una cosa così no. Quindi ha appoggiato tranquillamente il capino sulla sua camicia candida con l'ascella profumata, poi? Sì. Lei è rimasto impassibile? Impassibile è rimasto? Io sono rimasto impassibile, il primo pensiero che ho avuto io, siccome avevo il portafoglio e i documenti in un borsello quadrato, 20x20 circa. 20 a lei porta il borsello, lì. Il borsello quello da sottobraccio, quello 20x20? Il borsello quadrato. Era comodo perché in tasca il portafoglio mi dà fastidio, invece così ce l'ho sempre sott'occhio. Il classico borsello, possono... quindi lei è un uomo che gira col borsello, e questo è un segno di fascino. Quando vado in viaggio, sì. Questa ragazza ha visto un uomo col borsello, con la camicia bianca, seduta, si è avvicinata e ha appoggiato il capino sulla spalla, quindi? E poi appunto mi fa, parla, io sono stanca, chiude gli occhi e dice sono stanca e inizia ad allungare la mano. Io guardo, tengo d'occhio il borsello. Ma intorno gli altri passeggeri che vedono questa scenetta cosa facevano? Io mi vergognavo un po', no? Quindi lei copriva il turgore delle vergogne virili con il borsello e quella ha insinuato la mano sotto al borsello? E lei mi ha infilato la mano sotto il borsello, bravo, mi ha preso il borsello. Lei si era coperto le vergogne eccitate col borsello e lei ha infilato la mano sotto al borsello. Mi ha messo la mano sotto la sua donna. Ah, quindi il borsello non c'entra. Mi ha infilato la mano sotto la sua donna, chiaramente invitandomi a... continuare. Questo non si dice. Comunque, naturalmente, essendo estate, era priva di collana, di calze, forse anche di biancheria. Esatto, no, la biancheria ce l'aveva. Sì, una mutanda ce l'aveva. Gli altri passeggeri che vedono tutta questa manfrina, una che va lì, appoggia la testa, mette il borsello, sposta il borsello, prende la mano, l'infila sotto la gonna e rimanevano impassibili, facevano le foto, facevano i selfie, che facevano? No, c'erano quelli che potevano vederci erano i ragazzi che erano dietro, erano due ventenni, 18-20 anni avranno avuti, erano due ragazzi. E quelli si vede che qualcosa devono aver capito, ma più di tanto. Tutto questo alla luce del sole, in treno, nella tratta Venezia-Bologna, e come è andata avanti poi, come è finita? È andata avanti che io è un po' che sono separato, sono divorziato, eccetera, eccetera, sono tanti anni che non consumo con una donna. Quindi lei era, diciamo, abbastanza in astinenza da qualche anno? Sì. Quindi non le è sembrato... Ero molto eccitato e non riuscivo a... Quindi quel borsello ormai era diventato una valigia praticamente? Sì. Insomma, in fin dei conti, io non ce l'ho fatta più, a un certo punto stavo scoppiando letteralmente. L'ho presa, l'ho trascinata, sono andati dentro. La trascinata così come una donna. No, l'ho presa per un braccio, lei veniva lì, sì, mi diceva. Andiamo. Mi piace se mi dici dimmi che sono una troia, mi diceva. Ah, così? Sì. E intanto passava quello dolce, salato, cosa beve, cosa prende. Questa cosa io la capirei se fosse caduta di notte nell'Oriente Express mentre passa attraverso, che ne so, la steppa e non c'è nessuno, ma in un treno che immagino frequentato da persone, tutta questa scena è passata inosservata secondo lei? Lei che trascina una donna e dice dimmi che sono una troia e che lei la trascina eccitatissimo col borsello e via dicendo. Lei dove l'ha portata? Dove siete andati? Nel bagno, era l'unico posto dove ci si poteva appartare. Vabbè, in un bagno delle Ferrovie dello Stato, a meno che non sia il bagno quello per i disabili. No, infatti. No, era quello con le portelle, quelle rotonde, sanno, è abbastanza spazioso, non è enorme, ma non è neanche piccolo. Siete entrati dentro la toiletta? Lei è venuta con me, perché anche lei voleva consumare, no? In fin dei conti, io super infoiato da anni che non la vedevo, eccetera, eccetera, sono scoppiato prima, non sono riuscito a consumare. Ha avuto, diciamo, un parossismo precoce, ecco, diciamo così. Esatto, non ce la facevo, stavo scoppiando. E quindi lei ha detto, tutto qua, se n'è andata? Sì, tutto qua, se n'è andata, poi ha cominciato a dirmi, ma vieni con me, che lei doveva andare in un'altra città. Stai un paio di giorni con me, facciamo l'amore 2 o 3 giorni. Visto il preludio, non è che c'era da aspettarsi poi tanto. 3 giorni a far che facevate? Giocavate a briscola, che facevate? Ormai lei aveva sparato la sua cannonata e che doveva fare ancora? Sì, ma dopo io all'inizio non avevo capito, mi sono fatto prendere all'inizio, poi riflettendo ho visto che ho fatto una cazzata, non dovevo fare quella storia lì, dovevo starmi per i fatti miei, è finita. E quindi com'è finita cosa poi? Pretendi? È finita che io sono sceso a Imola e arrivederci. È finita là, poi ci siamo sentiti, diciamo, al telefono abbastanza un paio imbarazzante. Di volte. E comunque mi sono c'è anche il rubinetto nello scompartimento, una lavatina. Ah, si è dato una lavatina, sì, perfetto. È tutto finito così. E cosa le resta di questo momento indimenticabile di passione? In fondo lei ama le rose che non colse, perché alla fine questa ragazza ha continuato la sua strada e lei è rimasto lì. Sì, ma io non Ma c'è una lezione di vita in questo? Una stupidaggine. Ecco, ma secondo lei c'è una lezione? La vita cosa le ha insegnato in questo momento, diciamo, parossistico, ma allo stesso tempo pregno di ogni attesa, che è finito così? Meglio che non le faccio queste cose, meglio che rimango così, un tranquillo signore col borsello che viaggia e guarda fuori del finestrino, oppure altre volte ci provo e ci penso un po' prima, mi concentro, penso all'ex moglie, quindi non ho questi momenti di eccitazione. Cosa può fare in situazioni del genere un uomo? No, bisogna pensare che non è quello che può cambiarti la vita, un rapporto così consumato frugalmente sul treno con uno che non conosci, uno sconosciuto, così andare avanti e pensare che si possa anche creare sopra una relazione seria. Magari potrà nascere un grande amore, magari, che ne so, era la donna della sua vita, non trova? Cioè questa chimica immediata, questa donna è rimasta fulminata dalla sua avvenenza, le è venuta vicino, le è sofferta in maniera così repentina, magari era motivata, non so, da un profondo irrazionale desiderio nei suoi confronti, l'avrebbe amato per tutta la vita, sarebbe stata la madre dei suoi figli. Lei pensi quanto rimpianto in quella toilette del treno Venezia-Bologna? Non le basterà tutta la vita per rimpiangerlo. Alla prossima. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.